Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Migranti, situazione difficile, soprattutto per i minori non accompagnati. Dopo i disordini a Udine, il caso della struttura di Viale 23 Marzo finisce sul tavolo della Prefettura, un vertice convocato per venerdì. Ricreatori di Trieste, attività garantita nel primo giorno di sostituzione degli educatori impegnati in un concorso. A Trieste la Guardia di Finanza ha distrutto 2,5 tonnellate di cocaina, erano partite da un maxi sequestro internazionale. Le ondate di calore possono peggiorare le condizioni dei malati di Alzheimer. Lo studio dell'Università di Trieste è il primo del genere pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica internazionale. In montagna il gran caldo ha favorito una ripresa della stagione turistica, forni di sopra, albergatori soddisfatti per le presenze post-ferragostane. Per il lago di Cavazzo il tavolo tecnico previsto dalla regione non ha ancora soluzioni per recuperare la naturalità. La denuncia del comitato Salva Lago, che sottolinea il raffreddamento dell'acqua e l'inquinamento dei detriti dallo scarico della centrale di Somplago. Scoprire Spilimbergo con una guida a fumetti è la terza opera del genere dopo quelle dedicate ad Aquileia e Polcenigo ed è accompagnata da una mostra. Di nuovo buongiorno da Maria Spezia e Andrea Covri in studio per questa seconda edizione del giornale radio regionale. Il tema dell'accoglienza dei migranti provenienti dalla rotta balcanica continua ad animare il dibattito politico e sul territorio i problemi non mancano. A Udine c'è il caso della casa di accoglienza per minori non accompagnati di Viale 23 Marzo. Una trentina di ragazzi ospitati in locali non idonei secondo i residenti della zona che hanno chiamato in causa il prefetto. Ieri all'esterno della struttura c'era stata una rissa tra i ragazzi, la seconda dall'inizio dell'estate, una situazione difficile su cui il prefetto ha deciso di convocare un vertice istituzionale. Ieri una rissa, non la prima, davanti a una comunità per minori in Viale 23 Aprile a Udine, non lontano dalla stazione, una struttura che ospita circa 25 minorenni, gestita dalla cooperativa Aedis, su cui c'è l'attenzione delle autorità dopo che i condomini di un condominio vicino denunciano da un po' di tempo, da alcuni mesi, schiamazzi e rumori e fastidi che ieri sono stati evidenti appunto con questo video che gira, è diventato virale, di questa rissa. Ebbene, di fronte a questo ultimo episodio la prefettura ha deciso di convocare un tavolo per venerdì. Allora chiediamo al prefetto Massimo Marchesiello, che abbiamo con noi, qual è la ragione di questa convocazione e che cosa avete intenzione di fare? Vabbè, il problema non era stato sottovalutato, perché già comunque era in calendario la convocazione, limitata a questo punto ad alcuni dei condomini che mi hanno fatto già esposti precedentemente. Il problema che è stato portato all'attenzione già precedentemente in Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica e anche in tavoli allargati con gli enti gestori. È un sistema sicuramente complesso da gestire, perché vede più soggetti coinvolti, dalla Regione al Comune, Servizi Sociali, allo stesso ente gestore e le forze dell'ordine. Abbiamo questa riunione comunque già in animo e purtroppo, diciamo, c'è stata questa coincidenza che nata ieri pomeriggio, ma era già comunque in calendario fare il punto d'incontro. C'è l'ipotesi chiusura della struttura? È una valutazione che poi verrà valutata venerdì insieme agli anche alla Regione, che comunque ha, adottando un regolamento, la possibilità di intervenire per vedere se i requisiti strutturali sono idonei e sufficienti. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi alla sola Polizia di Stato mancano più di 10.000 unità e la carenza si fa sentire in maniera forte anche a Trieste, quanto denuncia il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia. In una nota il segretario provinciale Lorenzo Tamaro auspica misure di rafforzamento della sicurezza, presenza fissa, presidi delle forze dell'ordine e drastici provvedimenti nel breve periodo. Richieste, scrive Tamaro, provenienti da parte di forze politiche e di opposti schieramenti, soprattutto da parte dei cittadini. 2,5 tonnellate di cocaina sequestrate in una delle più vaste operazioni antidroga d'Europa sono state definitivamente distrutte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste. Imponente il servizio di sicurezza predisposto dalle Fiamme Gialle per il trasporto della droga all'inceneritore di Trieste per lo smaltimento. Un sistema di protezione che ha visto coinvolti anche mezzi navali del corpo, oltre che staffette e scorte. distrutti 2.149 panetti di cocaina, parte delle 4,3 tonnellate di stupefacente sequestrato tra il 2021 e il 2022 durante l'operazione Geppo 2021, che aveva portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 38 persone in Italia, Colombia e vari paesi europei, oltre che al sequestro di circa 2 milioni di euro in contanti. L'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia ha soccorso e recuperato un parapendista friulano di 51 anni che nelle prime ore del mattino è precipitato in fase di decollo sui due Pizzi nelle Alpi Giulie. A dare l'allarme è stato il compagno di volo, anche lui decollato dalla stessa montagna, che lo ha visto cadere. Il parapendista è precipitato nei pressi di alcune fortificazioni adiacenti il ricovero Bernardini, a quota 1970 metri, e si è procurato la frattura di un braccio. L'equipaggio dell'elisoccorso ha stabilizzato il parapendista, che è stato poi trasferito all'ospedale di Udine. Mondo del lavoro, dopo un ultimo incontro con la Regione, Will e Nursing hanno siglato l'accordo, finora rimasto in stand-by, per le risorse aggiuntive regionali nel comparto sanitario per il 2023. L'accordo verrà approvato venerdì prossimo dalla Giunta regionale. A darne notizia sono gli stessi sindacati. Due le integrazioni finali, la previsione di un incremento della quota a carico delle università per la remunerazione dei tutor universitari e la destinazione di almeno il 25% delle risorse aggiuntive regionali alle progettualità qualitative. A breve verrà reso esecutivo anche l'accordo regionale sulla nuova indennità di pronto soccorso, che terrà conto dei carichi di lavoro diversi tra il pronto soccorso di Udine e quello di Cattinara a Trieste, dove, spiegano Will e Nursind in una nota, gli accessi annui sono inferiori, pur essendo in servizio quasi il triplo di operatori rispetto al pronto soccorso udinese. A Trieste non si registrano al momento difficoltà nell'attività dei ricreatori, in servizio le insegnanti di scuola dell'infanzia e asilo nido chiamate a sostituire gli educatori impegnati fino a venerdì in un concorso, una sostituzione che era stata contestata dai sindacati che avevano annunciato uno sciopero con tanto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la decisione del Comune. Sono oltre 400 le persone impegnate in queste ore nel primo giorno di concorsi per entrare nelle graduatorie delle supplenze a tempo determinato dei servizi educativi del Comune di Trieste. Oggi il concorso è per le graduatorie dei ricreatori. Il concorso di oggi, così come quelli che ci saranno domani e dopodomani per entrare nelle graduatorie di nidi e scuole dell'infanzia, si svolgono tutti in modalità telematica. I candidati si collegano alla piattaforma online da casa propria. L'assessore all'istruzione Maurizio De Blasio ha incontrato ieri le sigle sindacali di UIL, UGL e CISL di categoria e si è posto l'obiettivo di trovare un punto di incontro, ha ascoltato, riferisce le considerazioni di tutte le parti e le istanze. Hanno dato però a loro volta agli assessori De Blasio e Avion, che è l'assessore al personale, una certa attenzione al benessere dei lavoratori. Hanno spiegato che l'assessorato si muove anche su altre direttrici come la garanzia dei servizi alle famiglie, la sostenibilità economica organizzativa dei servizi, anche nel rispetto delle operatività degli uffici. Ci sono anche poi molte altre criticità che dovranno essere affrontate in futuro, quindi è bene mantenere un rapporto il più possibile di collaborazione con i sindacati e si spera di scongiurare in questo modo la minaccia di sciopero che è stata ventilata da tutte le sigle sindacali e che potrebbe colpire proprio nei primi giorni del prossimo anno scolastico, quindi fra poco. Tutto bene per quanto riguarda le attività nei ricreatori. Le insegnanti da 0 a 6 anni, quindi degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, che sono state chiamate a fare da supplenti oggi, si sono presentate quasi tutte. L'afflusso dei bambini è rimasto lo stesso. Le famiglie quindi hanno dimostrato di avere fiducia nell'organizzazione straordinaria di questi giorni. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sul tema del lavoro povero e del salario minimo, dopo il successo della petizione online che ha già raggiunto oltre 200.000 firme nella settimana di Ferragosto, l'Alleanza Verdi-Sinistra, 5 Stelle, PD, Più Europa e Azione si prepara a raccogliere le firme anche nei banchetti fisici in tutta la regione. Il salario minimo di 9 euro all'ora va ad integrare la contrattazione nazionale laddove non arriva ed è solo una delle azioni che il governo deve intraprendere per salvaguardare il potere d'acquisto dei cittadini. cittadini, ha dichiarato Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana. E ora parliamo del gran caldo di questi giorni che sta mettendo a dura prova i più fragili. A rischio, secondo uno studio dell'Università di Trieste, sono soprattutto i malati di Alzheimer. I rischi legati alle ondate di calore potrebbero aumentare per le persone con patologie neurodegenerative come demenze e Alzheimer. Lo dimostra uno studio dell'Università di Trieste in collaborazione con ricercatori della World Federation of Neurology, pubblicato su Current Alzheimer Research. I risultati dello studio indicano infatti che tra i numerosi effetti negativi che le patologie neurodegenerative possono avere sulle capacità cognitive e funzionali, c'è anche una ridotta capacità di termoregolazione dell'organismo, soprattutto negli anziani. Per questo, se sottoposti a forti ondate di calore, i malati di Alzheimer o quelli affetti da demenza potrebbero non riuscire a mantenere costante la temperatura del proprio corpo. Inoltre, il riscaldamento globale potrebbe essere indirettamente associato allo sviluppo di condizioni cliniche, tra cui malattie renali o infettive. Sulla base dei dati presenti in letteratura, spiega Alex Boitestella, ricercatore in fisiologia umana del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste e primo autore dello studio, emerge come durante le ondate di calore siano proprio le persone anziane e quelle con patologie croniche, tra cui i decadimenti cognitivi o un maggior grado di dipendenza, a riportare un più alto rischio di ospedalizzazione e di mortalità. Già piccoli aumenti di temperatura ambientale media, specialmente con alti tassi di umidità, possono ridurre l'efficacia termoregolatoria in alcune di queste condizioni, rendendo più difficile disperdere calore sia tramite le risposte fisiologiche che quelle comportamentali. Vi sono infatti fattori comportamentali a contribuire alla maggiore difficoltà delle persone con deficit cognitivi e malattie neurodegenerative nel far fronte a eventi di caldo estremo, ad esempio un'alterazione della percezione del rischio e della capacità di prendersi cura di sé. Trieste, Lara Zani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ma il gran caldo può produrre anche effetti benefici come quelli che già in Veneto hanno riscontrato gli operatori turistici della montagna con una ripresa post-ferragostana della stagione. Per vedere se un effetto simile si sta producendo anche in Friuli Venezia Giulia siamo andati a Forni di Sopra. Buongiorno da Forni di Sopra, siamo a circa 1000 metri d'altezza, la temperatura tocca i 30 gradi, fa caldo, però è un bene anche per la stagione turistica, infatti gli alberghi sono pieni, ne parliamo con Gianni Corradazzi, un albergatore di Forni di Sopra. Come sta andando la stagione turistica? Ma direi che la stagione turistica sta andando bene, soprattutto in questo periodo qua, come diceva lei, le temperature calde hanno fatto sì che oltre alle prenotazioni che avevamo ci fosse tantissima richiesta in più. La stagione come tempo non è stata eccezionale in luglio, però direi che nel complesso noi abbiamo lavorato bene. E rispetto al passato, magari all'era pre-Covid e anche invece all'altro anno? Ma no, io direi che abbiamo forse incrementato un po' di clienti, assolutamente sì, e quindi siamo molto soddisfatti. A Forni di Sopra, naturalmente, come nel resto d'Italia, le temperature sono destinate a scendere la prossima settimana, però comunque avete prenotazioni per settembre. Sì, per settembre abbiamo già le nostre prenotazioni, organizziamo qui a Forni di Sopra la festa dei funghi e in quell'occasione lì abbiamo già, diciamo, l'albergo praticamente pieno. Forni di Sopra, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.43, passiamo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, a Udine e Gorizia 32 gradi e mezzo, a Pordenone 32, in Aramontana a Tolmezzo 28 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 27 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 26 gradi e mezzo, a Sappada 26, Piancavallo 25 gradi e mezzo, in quota su Monte Zoncolan 23 gradi e 5 decimi, su Monte Lussari 22, sulla costa a Lignano e Grado 30 gradi e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è di 29 gradi. Le previsioni di ARPA FVG: nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo con atmosfera afosa su pianura e costa. Temperature estremamente elevate in pianura. Dal pomeriggio sera sui monti saranno possibili locali temporali di calore. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo. Sulla costa al mattino probabile ancora borino, in giornata venti a regime di brezza. Sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale. Questa mattina a Udine il Comitato per la Difesa e la Valorizzazione del Lago di Cavazzo ha organizzato una conferenza stampa nel Palazzo della Regione dedicata a osservanza e violazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede di realizzare in contemporaneità sia la condotta al canale Ledra dedicata a usi agricoli sia il bypass dello scarico dalla centrale di Somplago, che abbassa la temperatura dell'acqua e porta detriti. A Maurizio Eppolito del Comitato Salvalago abbiamo chiesto una sintesi di quanto esposto. Ci sono stati degli studi in cui si dice che il lago in un periodo di circa 110 anni diventerà una palude, perché l'acqua che arriva dal lago artificiale di Verzegnis, oltre che essere molto fredda, avendo abbassato di molto la temperatura del lago e per cui la gente non fa più il bagno nel lago e tutta una serie di pesce nel lago non vive più come prima, si riempie di fango. In 110 anni si prevede che il lago venga riempito di fango. La regione aveva fatto queste leggi proprio per impedire che potesse succedere questo problema e per poter rinaturalizzare il lago in quello che era il suo stato naturale. Noi non siamo contrari alla realizzazione da parte del consorzio Ledra di questo canale di prelievo dell'acqua. Insistiamo sulla contestualità prevista dalle leggi della regione, di un canale di bypass che porti l'acqua del lago di Verzegnis fuori dal lago di Cavazzo. Torniamo alla cronaca. Due denunce per fuga e omissione di soccorso sono state presentate dalla polizia locale di Trieste a carico di altrettanti automobilisti che non si erano fermati dopo aver causato un incidente. A luglio è accaduto in via dell'Eremo e in via Fabio Severo. In entrambi i casi gli incidenti avevano causato dei feriti. Passiamo ai controlli straordinari sulle strade del Pordenonese. Nello scorso fine settimana Polizia di Stato e Polizia Locale hanno controllato 180 veicoli e 241 persone, contestando in complesso 41 violazioni al codice della strada che hanno comportato la decurtazione di 20 punti patente, impiegate sul territorio 11 pattuglie e 23 agenti. Per scoprire alcune città della regione ci si può orientare con delle speciali guide a fumetti. La terza guida ha appena visto la luce, riguarda un centro del Pordenonese ed è accompagnata anche da una mostra. Una nuova guida a fumetti alla scoperta di Spilimbergo. Dopo Aquileia e Polcenigo è la città del mosaico la nuova meta del progetto Turismo a fumetti promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal PAF, il Museo Internazionale del Fumetto con sede a Villa Galvani di Pordenone. Le incredibili avventure di Irene a Spilimbergo, a cura dell'autrice Valentina Angelone, presenta la città attraverso la sua giovane protagonista e rappresenta una mini guida corredata di mappa per raccontare in modo non convenzionale il territorio, rivolto in particolare a famiglie e bambini. L'opera è accompagnata da una mostra a Palazzo Taddea con le illustrazioni tratte dal racconto, 31 tavole dove si riconoscono i luoghi simbolo di Spilimbergo, dal castello al Duomo, dal Craf alla scuola mosaicisti. L'esposizione è visitabile fino al 17 settembre. È prorogata invece fino al 15 ottobre la mostra Shaun the Sheep and Friends, l'esposizione più visitata di sempre del PAF, che ha portato per la prima volta in Italia gli iconici personaggi nati dagli studi di animazione Aardman, veri e propri capolavori di modellazione in plastilina, attraverso 37 cinematografici originali tratti dalle maggiori produzioni degli studi di Bristol. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Pordenone Legge, scattano le prenotazioni aperte a tutti i giovani tra i 16 e i 26 anni per l'evento inaugurale del festival in programma mercoledì 13 settembre alle 18.30 al Teatro Verdi. Sono 200 i posti disponibili fino ad esaurimento sul sito pordenonelegge.it. Un invito alla partecipazione che da stamattina Fondazione Pordenonelegge.it insieme al Comune di Pordenone sta diramando su tutti i suoi canali, dai social alle news, per arrivare a quanti più giovani possibile e poter contare, si legge in una nota della manifestazione, su una platea di energie fresche e proiettate verso il futuro. Passiamo allo sport con il tennis. Riccardo Bonadio è stato eliminato nelle qualificazioni del torneo Open degli Stati Uniti. Il tennista di Azzano Decimo si è arreso all'italiano Giulio Zeppieri con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3. Bonadio ha disputato un buon incontro mancando un doppio set point nel tie break del primo set, poi perso sul 12-10. Grande equilibrio anche nel secondo set, vinto dal pordenonese al tie break per 7-3. Nel terzo set Zeppieri ha imposto il proprio gioco e ha strappato il servizio a Bonadio sul 3-2. Il tennista azzanese non è riuscito a effettuare la rimonta nell'ultimo gioco, nel quale si era trovato avanti sullo 0-30, ma poi ha ceduto all'avversario, attualmente numero 137, mentre Bonadio è numero 204. Ora qualche appuntamento per la giornata. Degli scenari futuri riservati all'agricoltura si discuterà oggi nel primo evento del ciclo Economia sotto l'ombrellone, giunto alla 13ª edizione, nell'incontro intitolato Agroenergie, occasioni, difficoltà e prospettive per le aziende agricole. Sotto la lente il ruolo dell'agricoltura nella transizione ecologica, sia per la produzione energetica con biomasse, biometano e biogas, sia per la realizzazione di campi foto e agrovoltaici. L'appuntamento è a Lignano Pineta, al lungomare Kechler, al chiosco 5, alle 18.30. La cantante monfalconese Shari, il talent scout Francesco Facchinetti e il cantautore Francesco Baccini saranno tra gli ospiti dell'Aquileia Young Festival, rassegna dedicata ai giovani in calendario fino a domenica, che avrà come tema Generazione a confronto. Oggi la giornata d'esordio con lo spettacolo di musica, danza e arti visive intitolato This is Groove Living Motion, dedicato all'universo in onore all'astrofisica Margherita Hack nel 10° anniversario della scomparsa, in programma in Piazza del Capitolo alle 21. A Gorizia visita guidata oggi pomeriggio alla mostra Francesco Caucic Goriziano. Sarà abbinata a una degustazione di vini con appuntamento a Palazzo Coronini Cromberg alle 18.30. L'ingresso è solo su prenotazione al prezzo di 15 euro comprensivi di ingresso, visita guidata e aperitivo. SEME, Sentieri della Memoria, è il progetto che affronta la tematica ambientale. Oggi il primo appuntamento, che include uno spettacolo itinerante, un laboratorio di giochi d'una volta e l'incontro con il Circolo di Monfalcone di Legambiente. Appuntamento a Porpetto, con partenza dall'Arena di Via Don Minzoni, alle 17. Tappa fuori programma per la rassegna Vicino Lontano Mont, per la presentazione del libro Friuli, storie di rinascita della montagna di Giuseppe Ragogna, alla presenza dell'autore alla stazione ciclistica di Chiusaforte alle 17. Il Festival di Musica nei Suoni dei Luoghi propone un concerto speciale con protagoniste le direttrici artistiche del festival, cioè la pianista Gloria Campanera e la violinista Valentina Danelon, con un programma di musica a sorpresa. Appuntamento a Fagagna al Villa Verde Hotel alle 21 con ingresso libero su prenotazione. Una ultima ora che riguarda lo sport, il calcio. Sono uscite appena adesso le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie A. L'Udinese sarà impegnata a Salerno contro la Salernitana alle 18.30 di lunedì prossimo. Ad arbitrare sarà, vediamo subito insieme la designazione per quanto riguarda Salernitana Udinese, sarà Massa di Imperia. Un ultimo accenno ai programmi RAI, parte dai Sotterranei di Trieste la seconda serie di Under Italy, in onda domani alle 20.20 su RAI 5. Darius Aria esplorerà i sotterranei del Castello di San Giusto, risalente al 1400 e ricco di segreti passaggi sotterranei dove un tempo venivano segregati i prigionieri. Sotto il bastione fiorito dello stesso castello, Darius potrà vedere una galleria che testimonia tra gli altri ipogei del castello la natura difensiva degli stessi ipogei. Allo stesso modo, Darius visiterà gli apparati difensivi della Seconda Guerra Mondiale, le gallerie antiaeree sotterranee di Kleine Berlin, un sistema di due rifugi comunicanti, uno dedicato alla popolazione civile e uno all'esercito tedesco. La trasmissione in onda, come detto, Under Italy, domani alle 20.20 su Rai 5. Era l'ultima informazione per questa edizione del giornale radio regionale, redatto e condotto in studio da Maria Spezia e Andrea Covre. È andato in onda grazie alla collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Federico Comar. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.